Capitolo 14. Segreti. Joe aveva un gran da fare su nella soffitta. Le giornate d'ottobre cominciavano a diventare fresche e i pomeriggi si accorciavano. Per 2 o 3 ore il sole entrava dall'alta finestra col suo calore e la sua luce e illuminava Joe, seduta sul vecchio sofà, a scrivere, a scrivere. Davanti a lei, sopra un baule, erano distesi i fogli che ella andava riempiendo e intanto Scrabble, il topo prediletto, passeggiava lassù lungo le travi col figlio maggiore, un bell'animale, evidentemente orgoglioso dei suoi giovani baffi. Tutta assorta nel lavoro, Joe tirava innanzi a scribacchiare. Quando ebbe riempito l'ultima cartella, firmò con uno svolazzo e gettò la penna esclamando: «Ho fatto meglio che potevo. Se non va, dovrò aspettare fino a quando saprò fare meglio ancora». Adagiata all'indietro, rilesse da capo a fondo con attenzione, mettendo qua e là un trattino oppure un esclamativo, sul quale calcava tanto con la penna da farne un palloncino. Infine, legò tutte le cartelle con un bel nastro rosso e stette a contemplare il pacco, seria e pensosa. Aveva lavorato proprio d'impegno. La scrivania era una vecchia cucina di lamiera appoggiata al muro. Joe vi teneva le sue carte e i pochi libri per proteggerli da Scrabble, il quale aveva anche lui tendenze letterarie e avrebbe contribuito a far circolare i libri se gli capitavano col divorarne i fogli. Dal metallico ripostiglio, Joe tirò fuori un altro manoscritto, se lo mise in tasca insieme con quello nuovo. E scese lentamente le scale, lasciando agli amici i portapenne da rosicchiare e l'inchiostro da assaggiare. Evitando, per quanto poteva, di fare rumore, Joe si mise il cappello e il giubbetto e, scavalcato il parapetto di una finestra sul di dietro della casa, posò i piedi sulle tegole del basso porticato, dal quale si calò sul greppo erboso e poi, con un giro largo, raggiunse la strada. Là si ricompose, fermò un omnibus che passava diretto alla città e salì. I suoi movimenti erano vivaci e misteriosi, anzi, uno che li avesse osservati li avrebbe trovati strani addirittura. Quando discese, si avviò, allungando il passo, per una certa strada affollata e, raggiunto un certo numero, per trovarlo dove cercare un poco, entrò e, dopo essere stata qualche minuto immobile a guardare su per una scala piuttosto sporca, uscì ancora in strada e si allontanò in fretta. Questa manovra la ripeté più volte, seguita con viva curiosità da un giovanotto sorridente dagli occhi neri che stava ad oziare affacciato a una finestra di fronte. Quando si fermò per la terza volta, Joe ebbe un gesto di sorpresa. Si tirò il cappello sugli occhi ed entrò con l'entusiasmo col quale sarebbe entrata da un dentista a farsi estrarre parecchi denti. Nell'ingresso, effettivamente, faceva pompa di sé, fra le altre, un'insegna di dentista. Joe si fermò un momento a contemplare due monumentali mascelle artificiali che si aprivano e si chiudevano alternativamente per attirare l'attenzione sopra una doppia fila di denti bellissimi. Allora il giovanotto si infilò il soprabito, si mise il cappello e discese, andando a mettersi di sentinella sul marciapiede dalla porta opposta a quella del dentista, e dicendo fra sé con un sorriso e un brivido: «Naturalmente ci viene sola quella lì, ma se le cose vanno male, può avere bisogno di qualcuno che l'accompagni a casa». 10 minuti dopo, Joe scendeva le scale di corsa, rossa in volto e con l'aria di una persona che esce da una prova poco piacevole. Alla vista del giovanotto fece una faccia punto contenta e gli passò davanti salutandolo appena con un cenno del capo, ma egli la seguì e le domandò premuroso: «È andata male?» «Mica tanto. Sei tornata fuori subito, così in fretta?» «Sì, grazie al cielo. Perché ci sei andata sola? Non volevo far sapere niente a nessuno». «Ah, sei il tipo più strano che ho mai conosciuto. Quante ne hai fuori?» Joe lo guardò come se non capisse, poi d'un tratto rise, come se le venisse in mente una cosa molto divertente. «Due ne ho che vorrei mi pubblicassero, invece ho da aspettare ancora una settimana». «Ma perché ridi, Joe? Tu ne stai combinando una delle tue», disse il giovanotto, che era Lori, con l'aria di chi si trova davanti a un problema difficile. Anche tu, cosa ci stavate a fare, signorino, lassù nella sala da biliardo? Perdonate, signorina, non è una sala da biliardo, è una palestra e io ci vado a prendere lezioni di scherma. Mi fa piacere. Perché? Oh, così mi potrai insegnare e quando facciamo l'amleto ti diamo la parte di Laerte e la scena dell'assalto di Fioretto riesce bene. Lori scoppiò in una risata cordiale da ragazzo che fece sorridere i passanti, anche quelli che non ne avevano voglia. Amleto o no, ti insegnerò ugualmente. È divertentissimo ed è un esercizio che ti farà molto bene. Ma non credo che tu l'hai detto con tanta prontezza solo per questa ragione, eh? Che ti fa piacere, è vero? No, quello che mi ha fatto piacere è che tu non eri nella sala da gioco. E spero che in certi posti non ci andrai mai, me lo prometti? Non ci andrò spesso. Mai vorrei. Non c'è niente di male, sai, Joe? Il biliardo l'ho anche in casa, ma se non c'è qualche buon giocatore non c'è gusto. E così, siccome quel gioco mi piace, vengo qui qualche volta per fare una partita con Ned Moffat o con qualcun altro. Allora, mi dispiace, caro mio, perché ci prenderai sempre più gusto, sciuperai tempo e denaro e diventerai come quei discoli là. Io speravo di vederti rimanere un ragazzo come si deve. La consolazione di quanti ti vogliono bene, disse Joe scuotendo il capo. Ma non si può amare un piccolo svago innocente ogni tanto senza perdere la rispettabilità? Domandò Lori, punto dalle parole dell'amica. Dipende da come e dove si prende lo svago. Né degli altri della sua compagnia non mi piacciono e vorrei che tu ne stessi lontano. La mamma non vuole che lo invitiamo in casa, mentre lui vorrebbe venirci. Se tu diventi come lui, la mamma non ci permetterà più di giocare insieme come facciamo ora. Davvero? Chiese Lori preoccupato. No, non le piace la gioventù alla moda. Piuttosto che vedercela frequentare, ci terrebbe chiuse in uno scatolone. Bene, lo scatolone per ora non occorre. Io non sono un giovane alla moda e non ho voglia di diventarlo. Ma un po' di allegria, di quella non fa male a nessuno ogni tanto. Mi piace, questo sì. E nessuno ci trova da ridire. Stai pure allegro finché vuoi, ma senza esagerare, va bene? Se no, addio le belle parole e le belle ore che passiamo insieme. Sarò un santo. Non so che farmene dei santi. Devi essere un ragazzo semplice, onesto e rispettabile. E noi non ti lasceremo mai. Ma non so cosa farei io se tu ti comportassi come il figlio del signor King, pieno di denaro, non ha saputo spenderlo bene, si è messo a bere, a giocare, è scappato di casa, ha falsificato, dicono, la firma di suo padre. Un orrore, insomma. Mi credi forse capace di fare come lui? Grazie della buona opinione. No, ma ti pare. Ma sai, sento dire sempre che il denaro è una grande tentazione. Qualche volta quasi quasi vorrei che tu fossi povero. Non mi preoccuperei per te allora. Ah, dunque adesso ti preoccupi, eh? Un po' quando ti vedo capriccioso e malcontento, come sei qualche volta. Tu hai una volontà così forte che quando ti fossi messo per una strada cattiva, temo che fermarti sarebbe difficile. Lori camminò qualche minuto in silenzio. Joe lo osservava e avrebbe voluto non aver parlato. Le labbra di lui le pareva sorridessero dei consigli, ma negli occhi gli si vedeva una certa irritazione. Mi vuoi mica fare la predica fino a casa, eh? E gli domandò alfine. No, si capisce. Perché me lo chiedi? Perché se hai quell'intenzione, prendo subito l'omnibus. Se no, ti accompagno con molto piacere. Ho una cosa interessante da dirti. Oh, non predico più. Dimmelo subito, dimmela subito la cosa interessante. Va bene, allora, andiamo pure, ma quello che ho da dirti è un segreto. Se te lo dico, tu devi dirmi il tuo. Non ne ho io di segreti, cominciò lei, ma si fermò subito, ricordandosi che uno lo aveva. Lai, lai, e lo sai bene, tu non sai nascondere nulla. Dunque, coraggio, e confessa, se no non parlo nemmeno io, dichiarò Lori. È un segreto bello il tuo? E come? E riguarda persone che tu conosci, ed è da ridere tanto. Bisogna che tu lo sappia. Sapessi da quanto tempo ho voglia di dirtelo. E che voglia! Su, da brava, comincia tu. Tu non direi niente a casa, è vero? Nemmeno una parola. E non mi burlerai quando siamo a quattro occhi. Non burro mai nessuno io. Sì che burli, e sai anche tirar fuori dalla bocca degli altri tutto quello che vuoi. Come fai non lo so, ma il fatto è che tu sei un vero seduttore. Grazie. Fuori il tuo segreto. Ecco, si tratta di questo. Ho lasciato due racconti ad un giornale e mi daranno la risposta la settimana prossima, confidò Joe parlando nell'orecchio all'amico. Evviva Miss March! Allora, la grande scrittrice americana? Eh? E lo rigettò in aria il berretto e lo riprese a volo con gran divertimento di due anitre, quattro gatti, cinque galline e mezza dozzina di piccoli irlandesi. Perché adesso erano giunti nei quartieri eccentrici. Zitto, per carità! Non ne verrà fuori nulla, credo, ma non trovavo pace se non tentavo. Non ne ho parlato con nessuna. Se sarà una delusione, sarà per me sola. Ma che delusione! Non lo sai, Joe, che i tuoi racconti sono roba da Shakespeare in confronto alle birbonate che si pubblicano quotidianamente? Sarà bello vederli finalmente stampati e noi ne andremo orgogliosi della nostra scrittrice. Gli occhi di Joe mandavano lampi. È sempre bello sentire che qualcuno fiducia in noi e una lode da un amico è sempre più cara che 10 soffietti sui giornali. E il segreto tuo? Se non mantieni la promessa non ti crederò mai più, sai Teddy? Si affrettò a dire Joe per calmare un po' col tumulto della gioia e delle speranze destatele da una parola di incoraggiamento. Forse mi metto in un guaio parlando, ma non ho promesso di tacere e parlerò. Quando ho fatto una scoperta interessante, io non ho pace finché non la dico a te pure. Quel guanto di Meg, io lo so dov'è. È tutto qui? Fece Joe delusa, mentre Lori confermava con la testa e ammiccava in aria di gran mistero. E ti par poco? Quando saprai dov'è, son certo che ti parrà poco. Vedrai. Dillo allora. Lori si chinò e le disse all'orecchio tre parole che produssero nel volto di lei un cambiamento d'espressione assai buffo. Ella si fermò come impennandosi e per qualche momento lo stette a guardare in faccia, sorpresa e non piacevolmente. Poi ripigliò il cammino, chiedendogli brusca: Come lo sai? L'ho veduto. Dove? In tasca. Sempre? Oh sì, non è commovente? È orribile. Non ti piace? No, si capisce. È ridicolo. Non deve continuare. Ti immagini cosa dirà Meg? Non devi dirlo a nessuno, ricordati. Non te l'ho promesso io. Ma si intendeva, io mi sono fidato. Bene, per il momento non lo dirò. Ad ogni modo mi secca molto, vorrei non averlo saputo. Credevo che ti avrebbe fatto piacere. Portarci via Meg? Grazie, no. Quando verrà un altro a portare via te, allora penserà diversamente. Oh, vorrei che si provassero, esclamò Joe, truce. Vorrei vedere anch'io. E Lori a quell'idea ebbe negli occhi buoni un sogghigno. A quanto pare i segreti non mi fanno bene a me. Da che mi hai detto questo sono tutta sottosopra, disse Joe, come risentita. Allora facciamo una corsa fin laggiù e ti passerà, suggerì Lori. Non c'era nessuno, la strada scendeva senza ostacoli, invitante. Joe non resisté alla tentazione e partì. Cappello e pettine le volarono via insieme con varie forcine. Lori fu il primo al traguardo e si compiacque del suggerimento datole, perché la sua Atalanta la raggiunse coi capelli ondeggianti al vento, gli occhi luminosi e le guance colorite, e dal suo volto era scomparso ogni segno di malcontento. Vorrei essere un cavallo e poter correre miglia e miglia in quest'aria magnifica senza perdere il fiato. È stato bellissimo, ma guarda che strega mi ha ridotto. Va un po' a raccontargliele le mie cose. Da quell'angelo che sei, disse Joe, lasciandosi cadere ai piedi di un acero che seminava al suolo un tappeto di foglie rosse. Lori, senza fretta, andò a recuperare gli oggetti dispersi nella corsa, mentre Joe si faceva le trecce, augurando che non passasse nessuno finché lei non era in ordine. Ma qualcuno passò, e chi doveva essere? Proprio Meg, una vera dama, vestita da festa perché era andata a far visite. Che state mai a fare qui voi due? Domandò osservandoli sorpresa e un po' scandalizzata del loro aspetto. A far raccolta di foglie, rispose Joe sottovoce mentre ne metteva in bell'ordine una manata che aveva raccolto. E di forcinelle, aggiunse Lori, gettandogliele in grembo una dozzina. Vedi, Meg, su questa strada ci crescono insieme coi pettini e i cappelli di paglia. Tu hai corso, Joe March. Come mai? Quando la vuoi smettere di fare la scavezzacollo? Domandò Meg severa, rassettandosi i polsini e ravviandosi i capelli coi quali il vento si era permesso di scherzare un poco. Mai, finché non sarò vecchia e arrugginita e con le grucce. Non mi volere donna prima del tempo, Meg. È già spiacevole vedere te che cambi tutta in una volta. Lasciami fare la monella finché posso. Parlando, Joe si chinava sul suo lavoro per nascondere il tremito delle labbra. Da qualche tempo sentiva che Meg si andava facendo rapidamente donna, e adesso, col segreto rivelatole da Lori, temeva una separazione che col tempo era inevitabile, ma che ora le sembrava vicinissima. Lori le lesse in faccia il suo turbamento e, per distrarre l'attenzione di Meg, si affrettò a chiedere a quest'ultima: «A chi sei andata a far visita così elegante?» «Ai Gardiner. Sally mi ha raccontato tutto il matrimonio di Bella Moffat. È stato magnifico. Sono partiti e passeranno l'inverno a Parigi. Che bellezza, ci pensi?» «La invidi tu, Meg?» domandò Lori. «Eh sì, temo. Ne ho piacere», brontolò Joe, e con un gesto di stizza si annodava il nastro del cappello. «Oh, perché?» le chiese Meg, sorpresa. «Perché se ci tieni tanto alla ricchezza, non mi vorrai andare sposa a un povero», disse Joe con un'occhiata accigliata a Lori, che con lo sguardo le raccomandava di badare a ciò che diceva. «Non ti andrò a sposa di nessuno», osservò Meg, e si avviò dignitosa. Gli altri due la seguirono ridendo, bisbigliando e giocando coi sassi come due monelli, pensava Meg, sebbene avesse una mezza tentazione di comportarsi anch'essa come loro, se non fosse stato il vestito buono che aveva indosso. Per un paio di settimane il contegno di Joe fu tanto strano che le sorelle ne erano proprio sorprese. Quando veniva al postino, ella correva alla porta. Quando si trovava col signor Brooke, lo trattava male. A volte si metteva a guardare Meg con un'espressione sconsolata e poi le si gettava addosso come per maltrattarla e finiva col darle un bacio. Con Lori si facevano segni misteriosi e allusioni a una certa aquila. Le altre sorelle si persuasero che ambedue avevano perduto un po' la testa. 2 settimane dopo, quel sabato, che Joe era uscita di casa passando dalla finestra di dietro, Meg, che stava a cucire guardando giù nel giardino, vide con grande scandalo Lori che inseguiva Joe e la raggiungeva sotto la pergola di Amy. Cosa accadeva là sotto? Meg non riusciva a capirlo. Risate, strilli e poi un discorrere a bassa voce e un gran sfogliare di giornali. «Ah, cosa ne faremo di quella ragazza? Non vuol saperne di prendere un contegno da signorina», sospirò Meg, osservando con espressione poco soddisfatta la corsa di quei due nel giardino. «Spero che non lo farà. È tanto cara, tanto divertente, così com'è», disse Beth, che in realtà soffriva non poco che Joe avesse un segreto con qualcuno che non era lei, ma non lo faceva vedere. «È una cosa irritante, ma non c'è modo di farla diventare comme la faut», aggiunse nel suo francese Amy, che coi capelli tirati su e legati in bel modo si andava rifacendo i ricci e si sentiva in quel momento più elegante e più signora che mai. Pochi minuti dopo piombò dentro Joe e, gettatasi a sedere sul sofà, fece finta di leggere. «C'è qualcosa di interessante in quel giornale?» le chiese Meg con degnazione. «Niente, un racconto, una cosa da poco, mi pare», rispose Joe, evitando di mostrare il nome del giornale. «Faresti meglio a leggerlo forte, così ci farai divertire noi e tu intanto non farai cose sconvenienti», disse Amy con l'aria di una persona grande. «Che titolo ha?» domandò Beth, notando con meraviglia che Joe nascondeva il volto dietro il giornale. «I pittori rivali». «Suona bene, leggi», disse Meg. Joe schiarì la voce, prese fiato e si mise a leggere rapidamente. Le ragazze ascoltavano con interesse perché il racconto era romantico e quasi tutti i personaggi alla fine morivano. «Mi piace dove parla di quel bel quadro», osservò Amy approvando appena Joe si fermò. «Preferisco dove fanno l'amore e si chiamano Viola ed Angelo, due nomi che piacciono tanto a noi. Non è una coincidenza curiosa?» osservò Meg asciugandosi una lacrima perché la scena d'amore era abbastanza tragica. «Chi l'ha scritto?» domandò Beth, che aveva osservato qualcosa nel volto di Joe. La lettrice balzò in piedi, gettò via il giornale e, con rossore in volto, solenne e commossa, dichiarò ad alta voce: «Vostra sorella!» «Tu?» esclamò Meg, lasciandosi cadere il lavoro in grembo. È un bellissimo racconto, disse Amy con aria di competenza. Io lo sapevo, oh cara la mia Jo, come ne sono orgogliosa, esclamò Beth e tutta esultante corse ad abbracciare la sorella. Fu una gran gioia per tutte, senza dubbio, ma Meg non volle crederci finché non vide coi suoi occhi la firma Miss Giuseppina March stampato nel giornale. Amy si degnò di fare qualche critica sulla parte artistica e di dare qualche consiglio per un seguito, che sventuratamente non si poteva fare perché l'eroe e l'eroina erano morti. Beth, eccitatissima, saltava e cantava dalla gioia. Pure Anna intervenne con pittoresche esclamazioni di meraviglia e di congratulazione in sua barbara favella. Anche la signora March, quando seppe la cosa, fu orgogliosa per sua figlia. Jo un po' rideva e un po' piangeva di gioia, un po' pregava che non la facessero gonfiare troppo. La misteriosa aquila era l'animale araldico della Confederazione ed era anche il nome del giornale. E ora distendeva il volo trionfale sulla casa dei March, dove il foglio passava di mano in mano. Dici com'è stato? Come ti è venuta l'idea? Quanto ti hanno pagato? Cosa dirà papà e come avrà riso Lori? Tali erano le domande e le esclamazioni con cui assediavano la giovane scrittrice. Cuori affezionati, anime ingenue, la più piccola gioia della famiglia diventava per loro un avvenimento storico. Lasciatemi riordinare le idee, care, e vi dirò tutto, disse Jo, e intanto domandava a se stessa se aveva provato più orgoglio Miss Burney per la sua celebre velina che lei per quei famosi pittori rivali. Narrò prima per filo e per segno dove e come aveva portato i suoi racconti e quindi proseguì. Quando andai a sentire la risposta, quel signore mi disse che gli piacevano tutti e due, ma che i principianti non li pagava e dovevano accontentarsi di vedersi pubblicati e di farsi conoscere. Disse che il sistema era ottimo perché così i giovani scrittori erano incoraggiati a fare meglio e allora il suo giornale o qualche altro li pagava. Io dunque gli lasciai i due racconti. E oggi la posta mi ha portato il giornale. E Lori è arrivato mentre lo leggevo. E ha voluto vederlo anche lui. E io gliel'ho lasciato vedere. E lui ha detto che il lavoro era buono e che devo continuare a scrivere e che il prossimo racconto lui me lo farà pagare. E io sono felice perché col tempo potrò vivere del mio lavoro e aiutare le mie sorelle. A questo punto le mancò la voce. E sul giornale caddero lacrime di gioia sincera. Guadagnarsi da vivere e meritare le lodi delle persone care erano i più bei sogni della sua vita. E intanto il primo passo era fatto.